Italia e in Germania le loro relazioni specifiche, che ci ha un certo momento condotto alla necessità di approfondire i momenti di organizzazione istituzionale. Da un lato le imprese editoriali, e abbiamo preparato un volume sulla enciclopedia giuridica italiana che sta per uscire, e nella quale enciclopedia giuridica italiana non c'è affatto solo diritto, ma ci sono tutte le scienze sociali. È chiaro che a questo punto la prima ovvia domanda è stata l'università, ma noi siamo arrivati a porci il problema dell'università a partire dalle scienze sociali. Siamo arrivati a porci questo interrogativo, ecco in certo senso la curvatura e l'accentuazione, perché noi muovevamo da studi relativi a come si organizzano le scienze sociali in Italia e quindi, sì certo, l'editoria, naturalmente l'università. Allora qual è la prima acquisizione che mi sembra questi due giorni di incontro e di discussione ci hanno dato? Ma intanto, non soltanto genericamente il fatto che la questione universitaria è complessa, grosso modo tutti quanti noi forse lo sapevamo, ma ci ha dato l'occasione invece di misurare questa complessità su un confronto che mi pare sia risultato fortemente sia ieri sia oggi, quello delle scienze naturali, come un confronto non soltanto tra elementi in qualche modo distanti, eterogenei, esterni, ma tra elementi che in molti punti si intrecciano e non solo sul piano organizzativo, ma sul piano, vorrei dire, del modo di costituirsi delle discipline. Abbiamo insistito anche, mi pare, su questo, che ci sono dei processi evidentemente che non hanno soltanto delle generiche rassomiglianze, ma che hanno proprio delle fortissime interconnessioni nelle modalità, nelle metodologie, oltre che nelle procedure organizzative, tra scienze appunto che usiamo per comodità chiamare sociali e naturali. E ne abbiamo fatto qualche esempio. Io personalmente ieri accennavo al costituirsi dei saperi di un settore rilevante della società, cioè quello per la criminalità, che poi un altro modo per dire come si costituisce la nozione di normale. E quindi a questo punto capite bene che significa andare immediatamente, è un tema caro a Pasquale, andare immediatamente alla nozione giuridica, ma politica, ma sociale, dell'uomo medio, che nell'area del diritto significa che i contratti vanno fatti e quando si fanno i contratti ci vuole la buona fede o ci vuole la conduzione del buon padre di famiglia. Nella scienza politica significa la nozione di uomo di via media o le cose che studia Raffaella. Nella scienza medica antropologica è la nozione di uomo normale. È la statistica, eccetera. Quindi a questo punto mi pare che siano emerse attraverso vari interventi che si sono ascoltati la necessità che la stessa ricerca, pur istituzionalmente e formalmente chiusa, anche, vorrei dire, per fortuna il CNR non è che poi sta a vedere quello che concretamente si fa, ma in teoria noi saremmo istituzionalmente legati a un progetto che ci dice di studiare le scienze giuridiche, politiche e sociali nelle università, appunto. E però abbiamo visto, siamo già, mi pare, in possesso di un dato, che non possiamo studiarle da sole, non le possiamo studiare isolate da questo tipo di contesto al quale rapidamente accennavo. Detto questo, però, poiché tutto non si può fare, e giustamente Piero richiamava questo, e allora io direi che occorre fare un calendario. E ci troviamo ancora una volta, ed era il secondo elemento positivo che volevo registrare, ci troviamo nella circostanza fortunata che ci sono anche altre iniziative parallele, che però sono distinte, alle quali si può partecipare, dalle quali si può partecipare ascoltando e imparando, o partecipando, dato che poi le persone non è che siano migliaia, più o meno si incontrano sempre. Mi sembra che ce ne siano varie, c'è questa di Siena che è la prima e la più ravvicinata a questo punto, però adesso fissiamone anche un'altra interna nostra. E quindi calendarizziamo anche questo incontro, fermo restando che quella di Siena ha una sua anche colorazione e coloritura. Fissiamo, direi, la nostra con una sua però tematizzazione che può essere, e forse a mio giudizio utilmente, molto, molto ristretta, può avere uno spettro meno ampio di un convegno quale quello senese. Quello è un convegno, la nostra è una ricerca. Le ricerche io penso sempre che si fanno meglio quanto più sono consentono di stringere. Il convegno ha esigenze di cogliere anche tanti territori. Noi, bene o male, siamo un gruppo che può utilmente scegliersi un tema sul quale, o due temi o tre temi, ma insomma, ecco, sul quale poi convergono, confluiscono prospettive differenti. Fissiamo questo calendario e poi l'ultima cosa, sollecitiamo, sì, anch'io solleciterei Mauro o altri, a cercare di fornire a noi elementi e cose che noi non sappiamo fare, non possiamo fare. Questo tema, questi temi bellissimi e ricchissimi che ha già suggerito Mirri questa mattina, ecco, ho bisogno che le persone che hanno fino ad oggi partecipato a questi incontri trentini non mi sembra che possano affrontarli. Storici puri, come si può dire, o storici dell'economia, storici della società, non ne abbiamo. Finora non ci sono stati, quindi è un po', solleciterei questo tipo di necessarissimo contributo, perché questi temi appunto non soltanto sono in assoluto suggestivi, ma mi pare abbiamo verificato che sono interni poi alla possibilità di crescita di questa ricerca. Va bene, molte grazie, questo qui è molto importante e mi conforta, perché bisogna far così, ecco. Adesso poi bisogna rispondere subito anche a Raitis per la storia lì della QM e della QO, che è molto importante per tutto. Però prima io direi, fermiamoci su questo calendario. Io propongo che si faccia il primo incontro nostro del 91 prima di Siena, e cioè nel febbraio, cioè circa fra un anno di questi tempi, insomma fine febbraio, giù di lì, e questo qui io lo farei su questa, io parlo in maniera vaga, insomma non voglio essere preciso perché sennò mi faccio troppa fatica, cioè su questo movimento disciplinare, insomma, delle discipline, no? Questo mi sembra importante come tema, perché ci consente anche di farlo in modo, come dicevo prima, di lavoro, insomma, cioè progressivo, in progress, ecco. E quindi io direi su questo, senz'altro teniamo un punto fermo che è quello della criminalità e dopo ci riserviamo di articolarlo. Un secondo punto fermo, mi sembra, dalle cose che si dicevano ieri, non possa non essere il problema dei politecnici, insomma, politecnici, Beziehungsweise, quello lì di Milano, anche, cioè il museo, no? Che poi si trasforma, o io poi la storia non lo so bene, ma dica. Volevo specificare, se non era forse stato chiaro ieri, che il mio interesse non è una storia interna delle scienze, ma è la formazione dell'ingegnere come gruppo sociale, quindi mi va benissimo quello che ha detto lei prima e quello che ha detto il professor Mirri. All'interno di questo, cioè partendo dal concetto come si formano questi ingegneri, il caso torinese è particolarmente interessante perché abbiamo quattro istituzioni che in qualche modo confliggono tra di loro, che sono l'università, che è un modello, usiamo questa parola, la scuola di applicazione, che è un altro modello, il museo industriale, che è ancora diverso e non a caso sarà sostenuto soprattutto nei primi 20 anni da tutto il gruppo cosiddetto industrialista italiano. Sella è uno dei sostenitori più fermi del museo industriale, e c'è l'Accademia delle Scienze di Torino, che è un'altra cosa. Quindi si può fare un bel discorso su come le discipline si articolino all'interno e con chiaramente formalità diverse all'interno di queste quattro istituzioni. Quindi io sarei disposta, per quanto riguarda Torino, a portare degli elementi chiaramente così di discussione sull'articolazione delle discipline, su come appunto le nuove discipline venivano accettate in quelle istituzioni piuttosto che in un'altra, in che modalità. Qualche cosa anche sulle carriere dei docenti, cioè il discorso che facevo prima, che molto spesso a seconda del prestigio sociale che queste discipline, che queste istituzioni avevano, scientifico e sociale, queste istituzioni avevano, ben diversa era la carriera e ben diverso era il reclutamento. E poi, tenendo conto appunto che a voi giustamente interessa vedere come i gruppi sociali partecipino alla costituzione dello Stato, così fare magari una prima scrematura sui laureati e vedere appunto questi laureati come le carriere che facevano, il loro impegno di tipo politico nell'amministrazione locale, insomma un lavoro di questo genere. Sì, era una cosa analoga che io avevo detto ieri, cioè vedere come l'inserimento di un'istituzione statale in una realtà locale, dove già ci sono delle organizzazioni funzionanti, si pone, come le modifica, come queste convergano, e cioè anche qui quali sono i rapporti poi tra quello che erano delle istituzioni preunitarie con quella che diventa un'istituzione che è statale e che però di fatto al suo interno, e questa è ancora un'impressione, assorbe quelle locali diventando locale invece che imporsi come statale, quantomeno in parte. Per cui potrebbe essere appunto anche un'analisi dei docenti e anche poi un'analisi di chi lo frequentava, in modo da vedere quanto prevalga proprio la cultura locale precedente, che credo giochi una grossa parte. Per cui potrebbe essere in questo senso, allora, queste discipline naturalistiche potrebbero inserirsi in un discorso appunto di rapporto tra cultura preunitaria e cultura postunitaria, e poi c'è tutta una formazione di una classe dirigente che non è quella pubblica ma è quella privata, che a Milano è la classe dirigente, e non è, e quindi anche questo rapporto con la cultura umanistica, con le scienze classiche per la città di Milano, forse non so fino a che punto il discorso del rapporto tra avvocati e ingegneri alla fine dell'Ottocento sia poi così a vantaggio. Insomma, sarebbe da analizzare. Per Milano credo che le discipline naturalistiche e scientifiche abbiano una, possano portare forse qualche cosa di abbastanza importante. Ci devo pensare, perché però potrebbe dare questo tipo di contributo. Ah sì, che ha studiato Padova. Sulla scuola di applicazione, sì. Sì, certo. La si può ricontattare, questo certo. Sì. No, però ha studiato il caso padovano, insomma. Yeah. spesso capiamo male. Come dici? Sì, 84. È stato lavoro a Torino, sì. Sì, io lo conosco benissimo. Sì. Già nel Novecento, o no? Mi pare che siamo già nel Novecento. Vabbè, no, no, no, no, no, no, ma siamo già nel Novecento. Io mi fermo. No. Già. Non capivo. Ah, il Colombo deve essere verso l'80-90 che sì. Era industriale e era. Il professor, scusate, ha parlato il professor Cardini. No, niente, dicevo. Spiegavo di no, siccome Colombo, no, di Colombo, ma è una cosa nota. Perché Colombo, no, Colombo aveva. Sì, Colombo era industriale, ingegnere e pubblicò anche diversi studi di ingegneria, era anche professore al Politecnico, mi pare. E era l'autore del manuale di ingegneria, fondatore dell'industria Edison. Sì, ma quello ci sono studi anche. Filo conduttore per tenere sempre presente questo problema di diritto. esempio esemplarmente. Allora no, allora se questo riguarda, se questo è il problema, allora c'è un problema di grossi personaggi della politica e della burocrazia che sono scienziati. Vercelli è un medico, Cremona è un matematico, Colombo è un ingegnere, allora bisogna affrontare queste persone e fare una cosa che io ritengo tutt'altro che superata storiograficamente, anzi vitale, che non sa niente, fare delle belle biografie del politico. Nella sua, il povero Pintino nella sua va bene, ok, allora adesso parte che ci stiamo quasi schiacciando. Torniamo al problema Rising. Secondo me dobbiamo partire, io dico che dobbiamo partire insomma a cavallo dai 50 ai 60. Io terrei presente in tutta la discussione che voi dipende dai settori. No, ma dobbiamo però dare per la bibliografia. Per la bibliografia. Era di voi, insomma, la tela, la marina, la riva, la criminalità. dovete mettervi un po' d'accordo, e anche desiderio di aprire più che si può dal diritto. Ma si potrebbe chiedere a Giacanelli se, se può fare Giacanelli. Vogliano, non tanzatevi tutti. No, no, non mi scorda. Se vogliano, non tanzatevi. E poi c'è però che Giacanelli se lo Giacanelli che dice per la psichiatria, poi dopo ci sarebbe, secondo me, questo discorso, soprattutto la prospettiva normalità che faceva Aldo da ultimo, secondo me si tira dentro da tutti. Perché era base, io mi sono convinto che quello di libertà. Non è che il problema è serata, se non si bilancia troppo. Poi dicevamo medicina Pogliano, poi si parlava di economia, c'è questa signora Gioli, che insomma io l'ho conosciuto, che si occupa un po' di queste cose dal punto di vista della diffusione delle teorie e delle dottrine, un tentativo di recupero del vecchio caro amico Conte, che poteva anche però mi sembra difficile, per il sistema via scienze politiche si diceva la Tirelli, certo, ma si poteva anche coinvolgere naturalmente Sola, e per le scienze naturali, medicine, eccetera, c'era da una parte appunto Torrini, che però non so se la voglia, eccetera, e forse Fogliano, a parte che abbiamo sempre Pastorini, quasi come è durato tutti, ma che però è anche abbastanza difficile da incastrare. Insomma. Questo era il quadro che avevo io, e che rimane valido nel senso che ci sono nomi e indicazioni, però mi pare che per il momento possiamo accantonare e andare avanti nelle direzioni che abbiamo fatto. Adesso, se ci sono 5 minuti ancora per chi è interessato, forse varrebbe la pena di dire due parole su questa rivista di cui sono proprietario. Direttore, no, direttore no. Sono proprietario e che è uscito direttore secondo... proprietario come Pasquale Stanislao Mancini delle sue e che abbiamo perché sonnino che abbiamo fatto secondo che hanno fatto quelli fanno loro la capacità acquisitive no il problema è questo qui intanto per cominciare chi è che non l'ha mai vista di voi questa rivista allora l'abbiamo mandata controllo io ricevo la recupererò allora vediamo una se la Polenti ma chi ancora non ha avuto per forza allora ve ne do altri due e tre ma dai che non abbiamo più però la recupero ma io non c'ho io sono deistituzionale allora qui adesso non dico che cosa era guardato niente speciale, ma insomma a un certo punto dopo tanti anni che stavamo insieme è sembrato a qualcuno utile avere un posto dove pubblicare le robe. Cerchiamo di farlo meglio che possiamo, fino adesso ci piace abbastanza per quelli che lavorano e forse andiamo avanti. E a questo proposito c'è forse qualche problema, ne approfittiamo per problemi. Ci siamo trasformati in redazione di scienze politiche. Voi non lo sapete, è successo prima. Problemi particolari per quel che riguarda i contenuti, no, problema finanziario ovviamente, essendo la rivista pagata da noi e quindi. La rivista non è in vendita, no? Allora questa proprietà è una proprietà grossa. Teorica, è un diritto di. Quando la venderai la rivista sarà lanciatissima. Reale, è un diritto reale, ma. No, no, no. E quindi tenere presente che dei nostri fondi almeno 6 milioni all'anno vanno accantonati per pagare i due numeri della nostra rivista, che, considerando che larga parte delle spese sono proprio quelle spese di spedizione, perché la rivista non si vende, si manda, si regala, e quindi oltre ai costi per l'edizione sono questi costi gravosissimi per la spedizione, quindi questo è il primo problema. Altro problema meramente tecnico era siccome siamo al secondo anno se cambiare la banda della rivista perché sia immediatamente riconoscibile, questo invece essere per la conservazione andare avanti così. Non so, lo dite. Va bene. Un'altra cosa invece guarda, qualche indirizzo, cioè se sì. Avete delle persone che può far piacere ricevere, la date di indirizzo allora perché siccome non si vende, si spedisce. Ecco, quindi indirizzo, benvenuti, eccetera. Per la banda dove teniamo la banda, per quel che riguarda la spedizione, almeno per quello, però io dico questo. Potremmo, se noi la facessimo direttamente da prestito, la spedizione, io facciamo perdere la questione della composizione che si può fare qui o no, che non ho ancora potuto. Però il problema è della spedizione. Facendola qui io la posso immediatamente far gravare su Cerneo. Sì, ma tanto grava lo stesso perché quando ti mandiamo la fattura che è complessiva della la pago già. Perché la mano. No, no, ed è tutto irrilevante. Io pensavo che non la pagassi, la pago in Cerneo. Sì, perché quando ti diciamo, ti mandiamo. Come i nostri fondi, pensavo che quello dei vostri fondi. Noi il primo numero l'abbiamo. Sì, ma infatti il primo numero l'abbiamo pagato tutto noi, no? In questo modo però facendo gravare anche la spedizione va bene, quindi era detto scoppiato no, No, niente, il problema è semplicemente del risparmio, perché probabilmente se si riuscisse qua a trovare un fondo invece 3 milioni ci costa 2. Questo riguarda appunto la possibilità di utilizzare. Lui è il proprietario, però prima la, lui è il proprietario, il primo l'avete pagato voi, il secondo l'ho pagato io, allora com'è? Il proprietario è stato su. È lì il marchingegno. No, che è un proprietario che anche paga, dovrebbe essere un matto, non un proprietario. Proprietari non. Vabbè, e allora questo troveremo questa soluzione. Escula proprietà. Andiamo avanti. Sempre la vecchia risposta dobbiamo dare. Avanti. No, poi a questo punto io comunico il terzo numero, comunico che è in stampa, a parte un contributo che deve arrivare, ma che deve arrivare a fine mese, e io comunicherò quello che va a finire questo terzo numero. Volentieri. Allora, in questo terzo numero c'è un articolo di Ilse Sbaffi di Francoforte su concetti e funzioni di diritto costituzionale materiale in Italia e in Germania. Poi c'è un articolo di Marina Catarussa che risponde a Dipper, all'articolo di Dipper sulla moral economy che era nel secondo numero. Un articolo molto bello, anche critico nei confronti delle tesi di Zit, e quindi anche questo è in tanta. Poi ci sono Moretti Porciani, titolo dice voi esattamente, Università e Stato negli Stati Università e Stato negli Stati Liberali, una ricerca in più. Che riguarda noi. Spero che riguardi loro. Ah, riguarda loro. Pensavo che fossero fatti di loro. Non erano per di rigruppo. No, sono fatti loro, guarda. Io sono quasi geloso, devo dire la verità. No, ci sono note, ampi, loro hanno il testo, resta lì, tu controlla subito però cosa c'è. Saranno verificate le note. Magari ci fai qualche aggiunta anche volta. Poi, un articolo di Lazarus, è l'unico marxista-leninista. Non dirlo. Mi ha distratto lui. È un francese. Poi ti dirò in privato, magari. No, ma non è su. Il bene e il male come categorie politiche. Saint-Just e la rivoluzione. Questo è il. Il bene e il male come categorie politiche. Ah, Saint-Just è il marxista. Non è stato facile trovarlo di questi tempi, diciamo, mettiamola così. Che va recuperata a Parigi. Siamo andati a Parigi. Mi avevano sentito parlare, si diceva, che in una casa. Noi siamo andati a liberarlo. Poi Palla. Palla. Questo amico di Corni, sul revisionismo storiografico. Palla per un'altra Palla, sì. Ecco, poi c'è invece, pubblicheremo questa... Finalmente facciamo una incursione indietro, perché io questa cosa qui, che la rivista si è bloccata sull'800-900, non l'ho mai potuto digerire, e anzi amerei molto che si aprisse indietro un bel po' ai temi miei di adesso, che sono antichi. E allora c'è questa, una bellissima cosa che ci ha autorizzato a pubblicare, cioè è una lettera aperta, a Pittolini sul problema dello Stato moderno, ed è una cosa formidabile, alcune pagine molto difficili ma molto belle, che girava tra amici, tra bambini, no? E allora io mi sono copiato e ho avuto il permesso di pubblicare. Speriamo che possa diventare una rubrica. Mi piacerebbe ristabilire questa risposta. Tu subito. Subito. Bene. Quindi sarebbe bello che potessimo ricreare questa cosa di scambi, ecco, di zocchi, quindi su Pittolini, e speriamo qua davanti anche il ristabilimento. Poi la rubrica Autonomo Rumeno. La rubrica un po' speciale. Che sono le autorecensioni, e continua con un'autorecensione di Stollas, dove è Tomasi. Come si chiama, com'è il titolo? Storia del diritto del Tazzo. È un'altra autorecensione invece di Franco Cassano, sociologo, che ha scritto un libretto molto, molto bello e molto anche fortunato, si chiama Approssimazione, esercizi di esperienza dell'altro, e ha fatto una lettura molto bella perché poi dopo coglie tutte le implicazioni politiche di questo discorso. Quindi solo queste due autorecensioni, perché quella di Stollai, mentre nel numero scorso ne ho fatte tre, però quella di Stollai sarà molto lunga, di 8 cartelle, credo che sono 9 cartelle, quello di Cassano è 5 cartelle, quindi arriviamo grosso modo a quello che era stato lo spazio dell'Italia. Poi continua ancora il bollettino, e nel bollettino questa volta finiscono dunque il resoconto del convegno di Siena fatto da Gigi Blanco, poi ancora l'Angela De Benedictis che ha fatto la prima settimana trentina, e poi il convegno di Macerata di Briccoli, e poi ancora il convegno dedicato a Anna Maria Battista, dove ascolta anche tu, era Salerno, e poi ancora la Valera. Devo dire che la Valera saluta tutti, con il solito affetto profondo che c'ha, e con anche un po' di disperazione perché non sta bene sua mamma, insomma, non sta bene neanche il suo maestro Repore, ed era molto disperata la stasera quando mi ha telefonato, come lei, insomma, che è l'incarnazione della disgrazia certe volte, insomma. Io gli ho dato tutto il nostro affetto, eccetera, penso che se per caso qualcuno del capo di telefonare o di mandare una cartolina, sarebbe un saluto della Gabriella. E poi l'ultimo era invece quello che ci ha mandato Corni, anche organizzato dal collettivo della facoltà di lettere dell'anno scorso, un incontro a cui lui aveva partecipato Luciano Canfora e altri. Questo è quello che finiva nel bollettino del numero 3. Poi qualcosa c'è già anche per il numero 4. Il numero 4, poi Aldo Mattacani, scusa, mi ero dimenticato del tuo articolo invece, scusami, che adesso io più qui non ho sotto esattamente, il titolo del... Sì, sulla giuridica, storia del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine 800. Sì, sì, come è possibile? Più o meno. Numero 4, finalmente il dibattito si sposta anche come competenze, l'articolo di Beneduce, non Pasquale, Beneduce lo psichiatra, Beneduce Marone, anche questo com'era il titolo? È sulla psichiatria clinica. Ecco, loro per esempio secondo me dovrebbero essere recuperati anche per la criminalità, no? Glielo dici tu? No? Sì. E poi dopo un articolo di Fadini sul concetto di istituzione indele. Poi ancora non questo ricerca. Ce l'ho detto io. No, questo l'ho detto Gustavo, che allora è vero. Poi in Luca Trombetta, che è un ricercatore di Bologna, che ha appena concluso un studio sulla dottrina morale della Chiesa post-tridentina. Quindi vedo che è. Poi invece la tua amica l'Angela De Benedictis, Repubblica per contratto, è stato questo articolo Repubblica per contratto, e poi ancora un intervento della sua terzo numero, invece finisce nel quarto, di Eligio Resta sul problema del garantismo a partire da questo testo di Ferraioli. Questo è quello che per ora andrà a finire nel quarto numero. Ah, poi autorecensioni, sicuramente nel quarto numero, Allegretti, profilo di storia costituzionale italiana, Schiera in occasione della sua edizione tedesca. E poi sicuramente anche Bombeni, che ha rifatto questa introduzione partita. Possiamo fare anche le altre sezioni sull'introduzione. no, si chiama introduzione al problema. Gracias. però siamo prima noi, ma perché questo è rilevante, perché a me non ve la volevo capire perché ci sei uscito. Va bene, allora grazie, è stato